Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Eccoci qua, cari ascoltatori, 18 prima e 31 secondi in questo, per fortuna, un po' meno assolato, ma insomma sarà comunque sempre molto caldo, weekend di luglio. Vi teniamo compagnia in questo sabato 15 luglio. Compare dei conti la Belva, Oscar Giannino, che vi ringrazia per l'ascolto qui al microfono, ma in studio con lui Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. E come sempre la voce dell'imprenditore, poi Renato Cifarelli ci raggiungerà più tardi. Vi dico subito, se volete intervenire all'800240024, di che cosa si parla? Parliamo di due argomenti, ma io la domanda che vi faccio è un'altra. La domanda è questa: secondo voi è giusto che, mentre le persone comuni, se hanno un lavoro dipendente e lo perdono, hanno la NASPI di fino a 2 anni, a seconda del numero di stimati di contribuzione degli ultimi anni, ma comunque al massimo è il numero di settimane a cui si ha diritto dura 24 mesi. Persone normali funziona così. Invece, per gli esodati delle banche venete assunte da Intesa, però per il più degli esodati di Intesa, sono 4.000 esodati, si va via con i soldi pubblici con un diritto al prepensionamento di 7 anni di anticipo, cioè persone che non potrebbero andare in pensione con i tetti annuali per l'età pensionabile previsti oggi, se non nel 2024, hanno diritto all'80% a spese pubbliche per 7 anni. È giusto per voi? Perché generali non fanno un plissé a questa... accordo che è stato raggiunto ieri. Vi ricordo che nei denari stanziati per l'assunzione delle banche venete 4,8 miliardi sono dati a Intesa, proprio per, da una parte, evitare che l'assunzione della parte pur buona delle venete comunque assorba capitale aggiuntivo rispetto al suo CET1, ma ce n'è una parte esplicitamente rivolta a sostenere i cosiddetti, tra virgolette, oneri di ristrutturazione, e infatti la gestione degli esuberi è questa. Per questo dico, sono soldi pubblici, è giusto per voi? Battete le manine, dite che bisogna essere riconoscenti al regolatore, al governo, perché questa è la grande saggezza di evitare che le crisi bancarie sfocino in chissà che cosa, o è la prova che per dimenticare la loro collusione dei regolatori si regala al settore cose che alle imprese comuni, ai lavoratori comuni si nega? Ditecelo, chiamateci. Questa è la mia prima domanda. Poi noi ci occupiamo, però abbiamo una prima parte in cui ci occupiamo di questo report dell'OCSE che è uscito sull'Italia, e partiremo dal tema delle retribuzioni pubbliche apicali, anch'esse incredibilmente fuori linea, molto maggiore rispetto a quelle della media dei paesi OCSE. Naturalmente la reazione è: non è vero, come sempre la reazione è negare i dati. Scopriremo che è la stessa reazione che fu opposta a Cottarelli e che fu opposta a Roberto Perotti. E poi ci occuperemo, dopo il giro delle 11, del grande dilemma, visto il tema sollevato da Renzi, cioè 5 anni di deficit al 2,9%, ma come, l'economia riparte e noi vogliamo fare più deficit? Siete d'accordo? Vi sembra giusto o è sbagliato? Sarà con noi il professor Leonardo Becchetti e vedremo con lui. Ma insomma è stata una settimana però in cui, oltre ai dati macro che vedremo subito dopo la prima pausa, l'export che va benissimo, la Banca d'Italia che rialza le attese, la crescita europea, però vedremo anche cosa questo significa per le politiche monetarie, perché significa che finiscono prima quelle di aiuto. Qualche altra segnalazione da parte dei compari? Mario, che aggiungeresti? Ma io volevo fare solo una considerazione banale, anzi due. La prima è che così, guardando la stampa e gli spin quotidiani, noto che nell'ultima settimana, per quanto riguarda l'immigrazione, siamo passati da blocco dei porti e divieto di sbarchi a servono nuovi hotspot. Quindi devo dire che non è male da parte del paese che firma accordi internazionali a propria insaputa, poi va in Europa a frignare cercando la solidarietà, diciamo. Questo non è male. Al limite, prendere una posizione e mantenerla per più di 24 ore sarebbe quella piccola cosa che ci eviterebbe di passare per quello che siamo, i clown d'Europa, e come tale la nostra reputazione è gestita. Poi stamattina stavo notando che c'è l'allarme del presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone, che lui e la sua, il suo staff sarebbero subissati da richieste di pareri e bollini e certificazioni da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, anche per, come dire, anche per andare in bagno chiedono il bollino dell'ANAC. E quindi Cantone si sta sbracciando dicendo che non funziona così. Ora, può darsi che non funzioni così, però io ho proprio l'impressione che questo sia un caso di incentivi perversi e negativi. Perché da un lato abbiamo una burocrazia che anche quando millanta di autoriformarsi o di essere riformata produce nuovi circoli viziosi. Dall'altro abbiamo la figura demiurgica di quest'uomo che magari anche, diciamo, non è stato lui, è stato Renzi che lo ha elevato ed eretto con un monumento equestre a una sorta di salvatore della patria. E dall'altro abbiamo gli italiani che giustamente si mettono a posto con la coscienza, come si diceva un tempo, con i sindacati, si diceva, no, mi metto a posto con i sindacati e mandano richieste di pareri. Il risultato finale è che nessuno fa più un accidente. Già il codice degli appalti prima stesura era qualcosa di demenziale per errori formali e sostanziali. Adesso andiamo avanti con gli interpelli. Questo è lo stesso fenomeno di quando, se ricordate, tutti correvano per avere il loro meraviglioso bollino della certificazione, antimafia. C'erano i padrini, c'erano i padrini che portavano e i picciotti che portavano la loro bella carta da bollo, si davano dare la stampigliatura e andavano via felici con il loro bollino di qualità. Invece, caro Alberto, fammi fare un volo sull'Europa e su Alitalia, perché finalmente sono usciti i numeri, capisci Oscar, dopo che li abbiamo chiesti per mesi, abbiamo chiesti mezza miliardata l'anno scorso. La cosa interessante però è che i primi due mesi di quest'anno hanno già bruciato 200 milioni, quindi viaggiamo a più di 100 milioni al mese, cioè un milione ogni 8 ore, un miliardo e passa all'anno, posto che c'è già un miliardo di indebitamento, non so come la mettiamo. Qui dicono che le offerte arriveranno sì e no a fine ottobre, non lo so, vuol dire che i 600 milioni e diciamo in 6 mesi vanno via senza problemi, quindi prepariamoci. Beh, dall'altra parte, dopo aver salvato le banche per decine di miliardi, cosa volete che siano poche centinaia di milioni per l'ex compagnia di bandiera? Però ecco una cosa importante, invece in Europa le soluzioni sono diverse. Guardate EasyJet, che stufandosi ovviamente del spettacolare casino, perché così l'ha definito il Financial Times, di Brexit, ha deciso che sostanzialmente se ne va dall'Inghilterra, e quindi va in Austria, ha già chiesto il certificato di volo nella nuova Unione Europea, cioè in quella senza le nazioni britanniche, non so come chiamarle ormai, neanche United Kingdom, arriveranno quindi hub nuovi in Austria, signori, in Austria, e questa secondo me è una grande occasione perduta, perché l'Italia poteva essere invece magari a Malpensa, in una Malpensa diversa, il cuore della EasyJet. Ci ampliassi anche questa cosa qua, questo per far capire che Brexit, il sovranismo, prima che provocare danni alle merci, provocano danni ai servizi. Se ne stanno andando le banche, se ne stanno andando tutte le attività ad alto valore aggiunto basate su norme e regolamenti che ovviamente sono le prime che abbandonano la nave che affonda. Questo per far capire a coloro che si illudono ancora che la lira, l'euro, il cambio, il problema è che l'assetto normativo istituzionale delle nazioni ormai conta molto, ma molto di più di un ritocco del 5-10% del cambio. Questo si fa fatica a capirlo, però è importante sapere che l'economia dei servizi, francamente, del cambio se ne strafrega. Esatto. Beh, due brevi osservazioni. La prima, anche questa settimana la Corte Costituzionale ci ha ricordato che siamo sudditi fiscali, ha respinto 3 ordinanze di remissione di 3 commissioni regionali tributarie, tra le tante che hanno provato a far pronunciare la Corte Costituzionale su 2 importanti pronunce della Corte di Cassazione, che sono intollerabili, inaccettabili, indegne di un paese civile. Senza farla lunga, queste pronunce della Corte di Cassazione negano il principio della giurisprudenza europea per la quale ogni contribuente ha diritto ha un contraddittorio prima che l'amministrazione fiscale assuma un provvedimento verso di lui. Questo è un principio acquisito, fa parte dell'acquis comunitario, ma in Italia è negato. La Corte di Cassazione si ostina a dire che non è così. Sulla base di considerazioni tecniche dice che può essere così, visto che è il diritto comunitario al massimo per i tributi armonizzati europei. Per gli altri no. Caro cittadino contribuente, non rompere cazzo. Non hai diritto al contraddittorio, prima che l'amministrazione faccia di te quello che vuole. Le commissioni regionali tributarie provano a rimettere queste decisioni della Cassazione alla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale non decide nel merito, ma prende sempre appigli formali per non pronunciarsi. Siamo sudditi, accettiamo un ordinamento schifoso da paese assoluto. I giornali, tranne il Sole, che giustamente con i colleghi specializzati segnala sempre queste cose, per il resto non arrivano a capire che un paese così è un paese pre-presa della Bastiglia. Ma lo dico seriamente, cioè ai tempi in cui il fisco era dato dai Borboni ai grandi appaltatori pubblici, non esistevano cose di questo genere. Ecco, e noi le accettiamo, questo voglio dire. Seconda osservazione, un plauso ai colleghi della stampa che oggi scoprono che con la nuova app per semplificare i pagamenti della macchina tributaria pubblica semplificata, cioè Pago PA, si paga di più. Esatto. Perché col MAV prima non c'era l'onere di commissione, o con l'F24, mentre adesso si paga di più. Il digitale, e lo Stato si fa... vi tratta da sudditi e vi inchiappetta, vi ruba pure i soldi. Quando dicono che io sono esagerato, un povero fenomeno da baraccone, a usare questi toni, mi dispiace. Chi sta zitto di fronte a questo è un servo indegno di fare il mio mestiere. Io morirò pensandola così. Nessuno mi farà cambiare idea. Ok, cambierò editore. Da poco. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non mi preoccupare. Però Mario, in questa settimana noi, a questa che è la sigla della tua rubrica, ne usiamo un'altra, cioè le parole usate da Pado questa settimana, che sono la bandiera che useremo d'ora in poi. Due domande si possono introdurre. La prima è, ma lei cosa pensa davvero di questo 2,9? Oh, Madonna Santa. Dai, non posso fare un dibattito sul 2,9. Ecco, questo Madonna Santa, Madonna Santa, questo Madonna Santa cazzo, caro Mario Seminario, del insomma, trattenutissimo alla fine. Padoan è diventato il miglior, no, come tre parole. Padoan, uno di noi. Uno di noi, me l'ha reso simpatico. Esatto, questi anni. Il mio idolo. Vabbè, insomma, che dire, ma ha ragione, povero, cioè, gli fanno domande. Ma che poi la cosa più sfiziosa, ma lei cosa pensa davvero? Davvero? Cioè, al di là di tutte le stronzate che ci dice quotidianamente, era lei... sottinteso, ma lei povero, non ci sente nessuno, solo alcuni milioni di persone. Lei davvero che cosa pensa? Ma davvero, davvero? Ma lei crede veramente a quello che afferma ogni giorno o c'è sotto qualcosa? Comunque, io ho espresso solidarietà veramente incondizionata. Io ho criticato spesso Padoan, però a Padoan sto esprimendo sempre di più solidarietà per la condizione in cui lo fanno lavorare. Avercene i ministri così, dai, Oscar. Figurati, sono d'accordo. Però comunque torneremo anche più avanti su questa bellissima parola d'ordine del 2,9% per 5 anni, per sempre, che appunto ha spinto il ministro a dire vabbè basta, no, non chiedetemelo nemmeno perché siamo al di là del bene e del male. Però questa settimana, Mario, bei segnali direi. Sì, la Banca d'Italia ha rivisto al rialzo la stima di crescita italiana per il 2017 all'1,4%, ma... D'altro canto, queste sono semplicemente conferme e adeguamenti, quando si fanno girare i modelli econometrici, di una situazione che sta andando bene, come noi vi diciamo da mesi. Questo chiaramente avvicinerà il momento in cui, verosimilmente a settembre, la BCE annuncerà il tapering, quindi la progressiva fuoriuscita dall'easing quantitativo, e lì probabilmente i paesi dovranno dimostrare di che pasta sono fatti. Quindi noi siamo impegnati su questo. Certo, se in Italia ripartono gli investimenti e una spinta in questo senso viene dall'iperammortamento, sicuramente possiamo dire che stiamo crescendo leggermente più del nostro potenziale. Però fammi dire una cosa. Sì. Visto che oramai il gioco mediatico è quello di Renzi contro il mondo, no? Che sembra un po' Godzilla contro King Kong, nel 2013, l'ultimo anno di governo in cui l'Italia non si è avvalsa dell'opera di Renzi, il nostro debito PIL era il 129%. Adesso siamo intorno al 132,5%, che va verso il 133%. Nel frattempo il PIL è accelerato, la crescita del PIL ha avuto un'accelerazione. Quindi se diciamo Dombrovskis e Moscovici hanno detto a Padoan, sempre a Padoan ovviamente, possiamo accettare la richiesta di flessibilità, quindi una correzione strutturale dello 0,3% il prossimo anno in luogo dello 0,8% che ci spettava, però dovete, qual è diciamo la cartina di tornasole, l'indicatore che comunque le cose stanno migliorando? La riduzione di questo cavolo di rapporto debito-PIL. Finché non avviene la riduzione del rapporto debito-PIL, non ci sono cavoli. Quindi questo prima ce lo mettiamo in testa, se lo mettono in testa a Roma e dintorni meglio è per tutti. Ma dire, come fa Renzi, poi ne parliamo, del 2,9% per almeno 5 anni o come clausola di salvaguardia una gigantesca operazione di gestione del passivo e dell'attivo immobiliare. Io ricordo Renzi nel 2014 disse: non c'è allo studio nessuna operazione taglia debito sul patrimonio immobiliare dello Stato. È vero che solo i cretini non cambiano mai idea, però se non c'era allo studio, adesso è allo studio, Renzi dice che ci saranno dei professori, che mi ricorda Berlusconi. Ogni tanto Berlusconi lancia lo spin: mi sono riunito con alcuni professori e adesso vi dico cosa è uscito. Cioè, Renzi sta facendo la stessa identica cosa. Quindi, cari amici, vicini e lontani, se non cala il rapporto debito-PIL è inutile continuare a menarla con fantasiose richieste di aumentare il deficit. E tra poco parliamo in dettaglio anche di questo. Comunque io devo dire che il dato sull'export, cioè noi stiamo veleggiando, erano i primi 4 mesi più 6%, la stima dei primi 5 più 8%, è una stima complessiva di segno più del commercio mondiale. Grazie al cielo sembra che, insomma, il tornado Trump sono parole fino a questo momento, diciamoci le cose come stanno, virgola, e meno male, aggiungo, sottolineato 3 volte. E questo è molto positivo. I segnali di alcuni comparti, quelli trainanti degli investimenti, trainati dal super incentivo, quindi sono macchine, utenze, automazione e così via, sono a doppia cifra complessivamente, sto dicendo mese per mese, non anno su anno, però anche questa è una componente degli investimenti che dopo i 28 punti lordi persi dagli anni di inizio crisi, beh, insomma, male non è. E riconosciamo a Carlo Calenda di aver fatto tempestivamente il suo mestiere, anche se si è lamentato proprio l'altro giorno a Milano del fatto che questi numeri, però, caro Oscar, vengono sempre dalle stesse aziende. Questo però non va bene, perché non stiamo allargando il perimetro di quelli che accedono a queste cose, quindi stiamo alla fine pescando nello stesso stagno, e c'è un limite ovviamente sia al modello di crescita sia alla possibilità che questa cosa generi poi una catena di investimenti. Questo aggiunto a quello che diceva Mario, cioè il rafforzamento dei segnali positivi che riguardano il complesso dell'Europa, il complesso dell'economia mondiale, ma anche l'Italia, secondo me inizia ad aggiungere elementi su questo, che è l'ulteriore elemento che vi proporrei, cioè sempre più si ha la conferma che questo ok all'operazione sulle due banche venete, secondo non il TUB e le regole italiane, ma regole scritte ad hoc, dettate da Intesa e accettate dalla Banca d'Italia, avvenga nel quadro di questo sfondo qua, per cioè valutazione della Commissione europea e poi degli organi tecnici, quindi dell'SRB e della DigiComp, per dire: cara Italia, vabbè, è meglio nell'interesse di tutti che ne approfittiamo adesso perché l'Italia smaltisca i problemi, siano essi quelli delle banche venete, ma siano essi anche il totale degli NPL. Non parlo tanto del comunicato molto sopravvalutato di questa settimana che apre alle società di gestione del debito, no? Si era parlato della Bad Bank Italiana, eccetera. No. Parlo di decisioni di merito come quelle che si possono valutare nella operazione che conferma una precedente operazione avvenuta a Bari, della transizione dei crediti deteriorati, di cui abbiamo preso ieri Creval, cioè il fatto che l'Europa sia d'accordo con il fatto che le banche restino loro sedute su transizione di senior fatte il più della roba, per così dire, con garanzia di Stato, sì, che a me lascia senza parole, mentre micro tranche rispetto al totale di junior e di mezzanine vengono messe a valore zero, il tutto per far dire, come vedete, il valore medio complessivo è 33-35% del nominale, quindi Banca d'Italia felice, ma a spese del contribuente potenziali, con questo che resta nelle banche originatrici per essere usate come collaterale, è una cosa di cui io ieri mi dicevo, ma questa è una truffa, invece c'è l'ok europeo. C'è l'ok, è stata fatta per Popolare di Bari, è stata fatta per Carige, è stata fatta, esatto, ieri per Creval. Di fatto cosa succede? Lo Stato entra come garante dei bilanci bancari, sostanzialmente dice, se le cose vanno male implicitamente pago io. Questo è una minaccia colossale sul debito pubblico, dicevamo prima, se dovessi mettere in conto, esatto, come contingent liability, esatto, quello, esatto, che ci siamo presi in queste, ragazzi, settimane, stiamo parlando di un centinaio di miliardi, esatto, di rischi. Soprattutto, insomma, potrebbe aumentare nel corso degli anni, come nella famosa voce rettifiche stock flusso, che quindi tutto quello che non riguarda il debito ma sono le botte che ci arrivano da fuori, e praticamente non se ne accorgerebbe più nessuno, perché qui stiamo parlando di cartolarizzazioni che hanno una scadenza, esatto, legale intorno ai 10-15 anni, esattamente, se qualcosa, Mario, va storto. Esattamente. Quindi è una bomba sotto il culo della garrula Repubblica Italiana. Bravo. Però va bene tutto. Io onestamente, però, non avrei... siamo solo quanti a parlare? No, ma nessuno, sono delle, dai, tecnicalità, non... il diavolo si nasconde nei dettagli. Io però... non avrei mai immaginato, ecco, che una banca potesse tenersi come, bravo, originator la tranche senior. Sono, non l'avrei mai immaginato. Quando l'ho letto ieri, perché confesso che mi sono distratto, ho un pacco di cose da fare, non seguo tutto, sono caduto dalla sedia. Esatto. È stata anche la mia prima impressione, e naturalmente mi hanno fatto riflettere gli amici, perché io ho fatto anche tweet pesanti, ho detto, questa è una truffa. Ma detto, guarda, truffa, guarda che qui c'è l'ok europeo, l'Europa vuole che noi lo risolviamo questo problema, poi lo vogliamo risolvere, visto come dice la Banca d'Italia, mettendoci i soldi dello Stato, e fate così, fate, prendete le due venete con i soldi dello Stato, prendetevi la GAX sulle senior che vi tenete in pancia, eccetera eccetera. Naturalmente basta che voi sappiate a casa che poi siete voi a pagare, perché questo basta che vi sia chiaro, anche se naturalmente la versione ufficiale dei giornali, e l'invito molto caloroso vi posso garantire, e a non disturbare anche a me personalmente, è quello di dire che tutto va bene, probabilmente. Beh, abbiamo visto l'assemblea dell'ABI, no? Il tripudio. Non so, io ero con funzionari dell'Unione Europea adibiti esattamente a questo pochi giorni fa, e mi dicevano sorridendo, sì sì, tutte vere le tue osservazioni, ma abbiamo deciso di voltare pagina, sostanzialmente, quindi preparati, perché questa cosa qua ormai viene messa da parte, sì, sì, piuttosto preparatevi, mi stanno dicendo, a un'onda di fusioni, perché per noi la ripulitura dei bilanci è prodromica a un processo di consolidamento e fusione. Quindi vedremo. Siamo stati molto, tra virgolette, favorevoli a un'operazione borderline sui bilanci, ma stavolta saremo molto rigidi sui processi di fusione, perché queste banche ripulite, boh, effettivamente, speriamo, a questo punto potranno chiudere, questo è il concetto, non potranno, so, essere fuse. Io temo invece che una volta che questo è il criterio, se tu mi dici che io devo credere che il tesoro, oramai più del 70% di MPS, decida rapidamente a chi ammogliarlo, io non ci credo. Te lo dico con grande sincerità. MPS no, se so, mi dici che c'è una maxima data di fusione delle BCC, perché ci saranno dei patti di coesione della holding durissimi, io non ci credo. Credo che saranno molto anacquati e tutto resterà come prima, perché l'aria che tira è: ha vinto il regolatore che dice qui non valgono le regole europee, ha vinto il regolatore che dice ci sono i soldi di Stato, ha vinto il regolatore che dice cari banchieri, tanto per i vostri errori paga lo Stato anche sugli esuberi, e così via. Questa è un'area che non spinge al rigore. Non lo so, fammi fare una lettura, speriamo, tra qualche mese, perché secondo me il compromesso è stato questo, cioè voltiamo pagina facendo in ritardo ciò che hanno fatto di fatto gli altri stati, perché qui stiamo alla fine, Mario, parlando di garanzie, ok? Garanzie, non è, sì. Quindi se vogliamo essere corretti, a parte sì, 5 sì, miliardi per Intesa, carità, stiamo parlando di garanzie, siccome è successo quindi anche per altri paesi. Quindi il conto si fa alla fine, come in Germania, noi diciamo sempre, bisogna farlo. Esattamente, allora, perché se no poi ci fanno giustamente notare che usiamo due pesi e due misure, invece non è giusto farlo. Per carità. Ciò detto, mi aspetto la contropartita dall'Europa, perché francamente noi che abbiamo sempre difeso il principio delle regole, siamo rimasti col palmo di naso. No, ma io sono abbastanza Va bene, ci sentiamo tra poco. Ok. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci qui tornati in studio, cari ascoltatori, questo 15 luglio con i miei impervi, ma pavidi, imperituri. Imperituri no, sarà beh, più difficile, vabbè, diciamo, ci proviamo, no? Esatto, ragazzi, impertinenti, va bene? No, ecco, impertinenti, ecco. Perché scusa, se siete davvero immortali e imperituri, spiegatemi come si fa. Imponderabili. No, è purtroppo no. Improponibili. Alla legge della massa non sfugge neanche Seminerio, per quanto geniale sia. La massa, basta la massa, via. Niente, vabbè, stamattina siete. Niente, non riesco a darvi un indirizzo. È come un indirizzo? Siamo qua in Viale Monterosa. 91. Ecco, 91, giusto. Va bene, vogliamo essere seri perché dobbiamo parlare di un'altra cosa vista nella settimana che secondo me ci deve fare molto riflettere. Volete essere seri oppure non l'avete degnata la vostra attenzione? Ditelo. Qual è? Ah, ecco, qual è? Stai parlando? No, Mario Seminerio. Ma ragazzi, oggi è una giornata straordinaria, perché guarda, Mario l'avete inquadrato oramai, intanto è una persona precisissima, tignosissima, attenta al particolare. Oggi, per motivi che devono essere suoi e che privatamente non ci deve dire, però intanto digrigna i denti, c'ha la testa che gli parte per qualcos'altro e si distrae. E io, io lo vedo che si distrae. Vabbè. Però, al di là di tutto, dai, siamo seri. Allora, questa settimana è uscito un report da parte dell'OCSE con alcune osservazioni fattuali sull'Italia. È un report che viene pubblicato nell'ambito dell'aggiornamento delle posizioni della stanza di tutti i paesi membri. Fa parte della serie, lo trovate sul sito dell'OECD, Government at a Glance 2017, e diciamo ci sono, oltre a mettere in fila i dati del bilancio, eccetera, eccetera, le spese di procurement, cioè i consumi intermedi, le acquisizioni, eccetera, ci sono un bel po' di dati comparati sempre rispetto alla media OCSE che riguardano il pubblico impiego, l'amministrazione pubblica, che per l'Italia fanno particolarmente riflettere. Perché ci dicono alcune cose che non tornano. Una è nota, è più o meno l'effetto, il fatto che siamo il paese con l'età media di dipendenti pubblici più elevata, cioè la quota di over 55 anni più elevata, e anche l'effetto degli unici provvedimenti tagli a spesa in termini reali assunti negli anni alle nostre spalle, cioè la somma del blocco del turnover. Non si potevano rinnovare tutti i contratti relativi a chi andava in pensione, maturava i requisiti, ma solo una percentuale molto bassa, ed è questo che ha portato il totale dei dipendenti a scendere da 3.700.000 a 3.200.000 di dipendenti pubblici nel nostro paese. E dall'altra parte questa misura ha comportato l'innalzamento dell'età media insieme alla legge Fornero, anche per il pubblico impiego. E questo si spiega. Ma ce n'è un'altra, invece, di approfondimento, dalla quale partiamo oggi per esaminare questo esame, perché c'è la comparazione per il settore pubblico, per il pubblico impiego, delle retribuzioni man mano che si sale nella piramide delle qualifiche. E si scoprono delle cose sulle quali è bene riflettere. Allora, abbiamo chiesto al nostro amico, oltre che al data analyst di professione, Thomas Fanfredi, che in sé e che lavora alla divisione di analisi del mercato e delle politiche del lavoro dell'OCSE, di aiutarci a capire questo rapporto, però partendo proprio da questo punto della comparazione delle retribuzioni nel pubblico impiego del nostro paese. Grazie innanzitutto, Thomas, di essere con noi. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo dal presupposto che chi ti ascolta non l'ha letto, non ha il grafico, quindi glielo deve spiegare. Nel pubblico impiego, come funziona la comparazione da più basso all'alto? Allora, come funziona? Io ho visto che ho semplicemente twittato il dato più che principale che esce appunto da questo rapporto Government Glance 2017, che era praticamente comparava, diciamo, il livello della retribuzione per le figure apicali, e praticamente ho twittato questi dati che vedono l'Italia praticamente in una posizione di record assieme all'Australia, e praticamente per le posizioni apicali, che voglio dire praticamente i capi gabinetto subito al di sotto dei ministri, dei sottosegretari, nei principali ministeri, quindi il Ministero dell'Economia, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro, del Politico Sociale, sono praticamente i massimi ministeri, la media è dollari a parità di potere d'acquisto in Italia è 395.400 dollari contro una media OCSE che è 231.500 dollari. Allora, questo semplice tweet ha scatenato, diciamo, un pochino di reazioni un po' stupite, perché sappiamo benissimo che c'è il famoso blocco che è entrato in vigore con molti e poi è stato reiterato da Renzi sulle retribuzioni, quindi molti non si ritrovavano con questi dati qua. Siccome io sono una persona abbastanza puntigliosa, sono andato a controllare i dati disaggregati. Da dove viene fuori questi 395.400 dollari? Allora, bisogna innanzitutto dire che il tetto, basta scaricarsi i dati sul sito, sono semplicissimi da scaricare, il tetto è valido sulla retribuzione lorda, ma al netto dei contributi sociali da parte del datore di lavoro. Quindi se uno andasse a controllare quella voce, vedrebbe che il tetto è ben tenuto in considerazione, nel senso che quella parte pesa per le posizioni apicali 257.000 dollari, se ci tiene conto appunto della parità poter l'acquisto è più o meno 250.000 euro che abbiamo in mente tutti. Se a questi si aggiungono i contributi sociali da parte del datore di lavoro, che pesano per altri 77.000 dollari, e una correzione che è fatta per tenere conto del numero di ferie a cui hanno diritto i top manager, la somma, che vale altri 60.000 dollari, soltanto di correzione per ferie, la somma è 395.000 dollari. Quindi è totalmente coerente con quello che si sa. Da dove vengono fuori questi dati? Non è che se li inventa l'OCSE. In alcuni casi, come capita a me, le stime provengono da inchieste, quindi in quel caso si cita come fonte OECD estimates based on whatever. In questo caso i dati vengono dai governi, cioè basta scaricarsi la pubblicazione, andare a leggere a pagina, io posso anche dire che ce l'ho qui aperta, 102 credo che sia, praticamente questi dati provengono dai governi stessi, che sono normalmente presi da un questionario che è inviato ai governi stessi, quindi tramite il network dell'OCSE, quindi sono controllati, non vengono fuori da stime sbagliate dell'OCSE, ma sono dati dei governi stessi. Thomas, che commento puoi fare a questo punto sui tre aspetti che hai detto, cioè stipendio base, contribuzioni, correzione di produttività, per esempio ferie e quant'altro? Esattamente questo. Se io prendo soltanto la retribuzione base e la comparo per esempio a quella di Francia e Germania, che sono i nostri altri grandi partner dell'Unione Europea, per esempio in Germania è a 180.000 dollari e in Francia a 172.000 dollari. Quindi voglio dire, è un livello ancora molto più basso del famoso tetto che ci siamo posti. Certo. Se prendessimo per esempio la Spagna, che ha un PIL per pro capite simile al nostro, quindi noi dovremmo più o meno compararci con, diciamo, comparare arance con arance, mele con mele, giusto, in Spagna questo livello è 133.000 dollari, quindi è quasi la metà di quello italiano. Quindi voglio dire, sono dati che parlano un pochettino da soli. Se poi dovessimo comparare questi livelli al GDP per capita, che è fatto nel grafico successivo a questo famoso sui livelli, verrebbe fuori che in Italia praticamente il rapporto è a 10, nel senso che queste retribuzioni valgono 10 volte il reddito medio che si osserva nell'economia. Basta dire che in Francia e in Germania questo rapporto è attorno ai 5, 6, negli Stati Uniti è a 4, in Gran Bretagna è attorno al 6, noi siamo a 10, in Messico è a 12, il Cile è a 10 e la Colombia è a 12, quindi voglio dire, abbiamo dei livelli piuttosto da Latino America, diciamo, mettiamola così. Quindi uno potrebbe anche dire che questi livelli sono necessari per attirare i talenti nella pubblica amministrazione, però visto che la media è talmente lontana da visto la dispersione del fenomeno, visto il gap il vantaggio che abbiamo rispetto ai nostri partner europei, credo che ci sia spazio di discutere misure. Esatto, perché a me fa impressione, anch'io naturalmente ho avuto lo stimolo a vedere, vediamo di approfondire, rispetto al tetto 240.000 euro, 250.000 euro, come volete, e però la risposta ve l'ha data Manfredi ed è esattamente così, quindi il dato ha senso. E come, a questo punto, cari ascoltatori, il rilievo del dato, guardate, è da riflettere davvero, perché a me pone un problema democratico, ve lo dico, al di là della appropriatezza di questa cifra rispetto all'economia nazionale e al PIL, al reddito pro capite, che diceva Thomas, che sono dei criteri ovviamente rigorosissimi e giustissimi, ma per me c'è un problema aggiuntivo. Perché se in tutte le posizioni più basse del, chiamiamolo, mansionario della pubblica amministrazione, in realtà l'Italia o è in linea o è sotto rispetto alla media dei paesi OCSE, perché nelle posizioni di segreteria, quelle più basse, è quasi in linea, e nei senior professional in realtà noi li paghiamo, iniziamo a pagarli meno di quanto noi paghino i paesi OCSE, poi nei middle managers iniziano a essere, quindi nei dirigenti, a salire rispetto alla media OCSE. Quando si arriva a quelli apicali raddoppiamo, è pazzesco, cioè la differenza è quasi nell'ambito del 70%, certo, un'oligarchia, è superiore al 70%. Allora la domanda è, ma non è che questa è la prova migliore che i provvedimenti li scrivono loro, sono veri, ma è veramente loro quelli che tengono in pugno la politica? Perdonate la domanda rossa, conflitto di interessi, però è una cosa talmente sproporzionata. Infatti la domanda che adesso ci abbiamo un minuto di sospensione, ma poi torniamo, e chiedo a Thomas, ma qual è ai loro occhi che stanno lì la spiegazione di un andamento così anomalo solo per queste posizioni? Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Eccoci qua tornati a porci il punto, uno dei tanti sollevati in questo rapporto dell'OCSE della settimana, questo sulle compensazioni delle retribuzioni nel settore pubblico del nostro paese. Per i dirigenti apicali c'è una differenza significativamente superiore al 60%, quasi al 70% rispetto alla media invece dei paesi OCSE. Perché? Tu che pensi, Thomas? Che cos'è che determinano per questo comparto particolare, quello apicale, una divergenza così significativa? Ma Oscar, cioè, diciamo che da un punto di vista dell'economia del lavoro ci si trova di fronte a una scala salariale molto ripida, no? Essenzialmente quello che succede. Praticamente, come hai detto bene prima tu, le posizioni di base, segretariali o di lavoro, sono pagati più o meno come nella media dell'OCSE, il senior professional leggermente al di sotto della media dell'OCSE. Si inizia a salire, e si inizia a salire in maniera abbastanza anche vigorosa per le posizioni di middle management, dove la media italiana è $172.000 contro $134.000 dell'OCSE, quindi vuol dire c'è una bella differenza. Però come dicevi tu, esplode la situazione per le posizioni apicali. Allora, certamente sappiamo che in questi casi cosa succede principalmente in un'organizzazione. Succedono essenzialmente due cose. Vi è una grande lotta ovviamente per salire nella scala gerarchica, come in tutte le organizzazioni burocratiche. Quindi più la differenza è alta, più questi costi interni di influenza più che di posizionamento interno diventano importanti. Quindi se io dovessi dare un consiglio, sarebbe quello di rivedere la scala salariale per evitare cattivi incentivi all'interno dell'organizzazione. Bravo. Pubblica, voglio dire. Mi sento di dare questo tipo di messaggio, che poi trascende un pochettino da discussioni personali o da altri tipi di No, è una considerazione generale. Ma certo. È una considerazione generale che appunto ha a che fare con l'organizzazione delle politiche salariali di un'organizzazione burocratica come quella dei ministeri. Quindi voglio dire, siccome io vedo che il rapporto fra diciamo la paga apicale e le posizioni più basse nell'Ocse attorno al 4, da noi attorno al 7, mi chiedo se non ci sia appunto da rivedere qualcosa per far funzionare un pochettino la macchina in maniera migliore, perché poi quello che viene fuori da questo rapporto in realtà è che gli outcome della pubblica amministrazione non sembrano giustificare questi tipi di remunerazione. O per meglio dire, non c'è stata data la possibilità di introdurre criteri di valutazione, perché poi questo è il punto, esatto. È peggio ancora, è opaca la faccenda. Infatti tu giustamente, Thomas, giustamente Manfredi ha detto non sembrano, perché la base per poterne avere l'evidenza, cioè semplicemente ancorare una parte molto significativa, io non voglio manager pubblici poveri, io li voglio però incatenati a una misurabilità nota ex ante degli obiettivi attribuiti e verificabile ex post secondo metriche che sono condivise secondo gli standard internazionali. Questa cosa non si riesce ad avere in Italia, non si riesce neanche con, mi dispiace dirlo, la riforma tentata all'inizio e dichiarata coerente a questi fini del salario di merito per la dirigenza pubblica del decreto Madia, non si è riusciti purtroppo a fare niente. Non solo, ma le correzioni di cui parlava prima Thomas, cioè quelle compensazioni per parità di carico di lavoro, sono ulteriormente aggravanti rispetto al concetto, perché sì, se dice 60.000 euro per minore giornate lavorate vuol dire che sostanzialmente stiamo pagando persone che lavorano anche meno della media dell'Ocse, corretto Thomas? Sì, esattamente, cioè questa correzione per l'Italia è particolarmente importante, quindi esattamente il numero di ferie è abbastanza elevato. Poi effettivamente quante di queste ferie vengano prese non è dato sapere, visto che è una correzione semplicemente sull'entitlement, diciamo così. Però effettivamente a livello di regole questo è, voglio dire, la situazione è quella che viene fuori. Ecco, e io ricordo ancora, visto che stiamo parlando di metodologia, che quando, perché ci hanno provato sia Cottarelli che Perotti, Perotti ha provato su questo particolare aspetto di cui parliamo, del rapporto dell'Ocse, ha provato in maniera più, per così dire, penetrante, cioè si è messo lì, lo racconta nel suo libro ex post, dopo aver rinunciato all'incarico di commissario alla Spending Review, a fare gli incontri con i dirigenti apicali proprio del MEF e dei ministeri, dicendo: vogliamo, per favore, potete darmi i dati per poter fare una comparazione, visto che l'accusa Perotti per i suoi articoli sulla voce da parte del Ministero degli Affari Esteri e delle altre burocrazie pubbliche era: caro professor Perotti, lei inganna i lettori perché propone comparazioni su base metodologico statistica inaccurata, impropria, inaccettabile, un'offesa pesantissima, voglio dire. E allora lui disse: visto che voi mi respingete qualunque criterio comparativo, me li date questi, ci mettiamo insieme a studiare come compararli in maniera secondo voi efficace, adeguata e corretta, e leggete il libro del professor Perotti, perché la risposta fu un risolino ispirato a superiorità, come dire, ma anche di persona viene a chiedercelo, cioè non hai capito che non te li daremo mai? Ecco, per dire, dietro la cosa che io apprezzo di report come questo dell'Ocse e del lavoro che persone come Thomas e gli altri che ci lavorano ci mettono in queste cose, è che in Italia da soli, caro Carlo Alberto, malgrado l'ottimo tentativo, la miglior fiducia e buona fede di persone come Perotti, non ci siamo riusciti, da soli non riusciamo a produrre questi dati. Non è un po' intollerabile anche per l'Accademia italiana? Non soltanto, appunto, le obiezioni metodologiche si scontrano contro invece questo criterio che è universale, che è per tutti i paesi dell'Ocse e che ci aiuta a capire. Poi se ci aggiungiamo, e magari Thomas ne parliamo un'altra volta, il fatto che la pubblica amministrazione italiana per colpa dei dirigenti è il primo ostacolo all'adozione delle tecnologie, facciamo bingo, vero? I famosi outcome che non riusciamo a misurare però sono evidenti. Grazie intanto a Thomas Manfredi, buon lavoro, tanto ci risentiamo con Thomas e noi torniamo dopo Giornale Radio. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati in studio in diretta alle 11.06 di questo sabato 15 di luglio con i compari Conti della Belva, Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale Maffè. Che dicono i nostri ascoltatori? Che dicono, Mario? Allora, guarda, c'è di tutto. C'è Franco che ci scrive: anche se non mi è chiaro dove volete andare a parare oggi, sono d'accordo con voi. Questo è il più bel messaggio che io ho mai ricevuto in vita mia. Ho avuto un'esistenza difficile. Un atto di fiducia in bianco, praticamente. Poi l'altro ascoltatore che scrive: Seminerio, ma di politiche anticicliche lei non ha mai sentito parlarne? Lei non ha mai sentito parlarne? Dai, per quanto riguarda il fare deficit per crescere, caro ascoltatore che poco prima di questo messaggio mi ha citato un noto economista di chiara fama, vorrei dirle che l'Italia in questo momento è in espansione. Quindi la politica anticiclica in espansione vuol dire fare una stretta fiscale e monetaria. Sì, non voleva quindi dire quello. Mi mandi dai il suo indirizzo e le mando una bambolina gonfiabile chiamata Nobel. Non voleva dire quello. Non voleva dire quello, esatto. Perché Livia, non Livia capisce. Ci sta dicendo che siamo in delirio. Poi perché c'è la nostra Livia che ci scrive da mesi, che è un'appassionata appassionaria renzista, con la foto profilo su WhatsApp sempre imbronciata. Livia sorrida, glielo dice un esperto della materia. Voi state dicendo da mesi che le cose vanno bene, delirio. Le suggerirei di guardare, anzi di ascoltare i podcast degli ultimi mesi, soprattutto il mio umile modulo iniziale sulla congiuntura, nel quale io ribadisco reiteratamente che la congiuntura va bene. Va bene per alcuni molto meglio che per l'Italia, esatto, che resta fanalino di coda. Tutto lì. Poi, se diciamo lei è accecata, oltre che sorda, e ha problemi di comprensione, e ce dai, lo faccia su, sapere ma e sempre risolveremo anche questo. Comunque sempre. Mario, ti meriti invece l'ultimo, no? Poi l'ultimo figo dice: andate al diavolo, vaffanculo stronzi. È chiaro che dovete fare la trasmissione, ma le vostre analisi mutatis mutandi sono quelle di 1, 2, 3, 4 anni fa e passano insieme i soldi sottratti. Ecco. Poi c'è la tirata contro i migranti e poi in maiuscolo canaglie opportunistiche. E va bene, dai, siamo poi c'è un altro che dice praticamente che lui si, perché mi figuro sempre Giannino che quando diciamo inserisce ex ante ed ex post nella frase si tocca da sotto la scrivania. No, dite che non è vero. Per caro ascoltatore, possiamo confermarle non che è non vero. È vero. Poi in caso lei faccia qualcosa per questa sua immaginazione. Fantasie, perché quando si hanno queste fantasie sabato mattina vuol dire che non poi si sta molto bene. Poi c'è un altro ascoltatore che via WhatsApp ci chiede di fondare un partito perché siamo belle, bravi e intelligenti. Siamo praticamente le sorelle bandiera. Su tre aggettivi non saprei cosa scegliere. E dice che prenderemo milioni di voti, aspetta. E poi dice: ah, dimenticavo, mettete il tedesco come presidente. Il problema è che il signore scrive ah, dimenticavo, non ah, virgola, dimenticavo, ma ha dimenticato. E quindi ma è diciamo, della tastierina, diciamo, la fretta sì, della tastierina, il T9, il più grande alibi della storia dell'umanità. Sentiamo rapidamente un po' di ascoltatori, perché noi abbiamo buttato lì qualche interrogativo e vediamo che cosa ci rispondono. Claudio che ci chiama da Olbia. Claudio, prego. Scusate, sono un po' emozionato. Anche noi. Un plauso a Giannino per farci sentire Seminerio. Beh, sono un appassionato del blog. Ogni tanto mi liberano pure, grazie. Poi lo richiudiamo, a due ore d'aria il sabato mattina, ma quando raramente la vedo in televisione non la fanno quasi mai parlare. Ne so qualcosa, infatti. Allora, Claudio. Ok, secondo me è anticostituzionale, il mio parere, fare figli e figliastri in questo paese. Sui prepensionamenti, stiamo parlando di quello. Sui prepensionamenti, sui bancari, su Alitalia, su Meridiana, su tutti quelli che hanno dei privilegi in questo paese di menta. Purtroppo è così. Se vuole le dico poco la mia situazione. Io ho 60 anni, quasi 30 anni di contributi, ho avuto una carriera discontinua e purtroppo non ho niente. Non ho un piffero, non c'è un piffero, niente. Non ho un aiuto da parte dello Stato. E sono ricco perché ho la casa, sennò sarei già alla Caritas. E in questo paese di menta è così. Se invece il signor Bimbo Minchia avesse fatto un bazooka con un po' di investimenti, un po' un bazooka contro la povertà, secondo me, togliendo tutti i privilegi che ci sono, secondo me l'Italia sarebbe sicuramente meglio sarebbe. E lo so, io vede, Claudio, le do così ragione che questa settimana ho postato di fronte alle proposte di Renzi a 2,9 molti passaggi del suo programma per le primarie del 2012. Quello che a me fece sperare tantissimo lui. Tanto che avevo contatti con lui, non è un mistero, e dicevo: se non ti fanno fare le primarie chiuse, volta al tavolo, esci, facciamo cose, insomma, mettiamo in piedi una rappresentanza diversa. Poi lui ha fatto un'altra scelta, io lo rispetto, però nel suo programma diceva delle cose delle quali io invito a leggerlo e troverete che Claudio da Olbia, secondo me, ha ragione, perché si proponeva tante di quelle cose esattamente in quella direzione lì. E oggi me lo ritrovo con la richiesta di fare più deficit al 2,9%. Trovavate in quel programma espressioni tipo: il fiscal compact va benissimo perché è la risposta a chi ci propone, a ci ripropone la tentazione del deficit del debito. La riforma Fornero non verrà rimessa in discussione, sono testuali parole di Renzi. La riforma Fornero non verrà rimessa in discussione perché bisognava assolutamente ridare stabilità finanziaria al sistema. Ogni premessa per parlare di una nuova Europa è la credibilità italiana, punto. Il debito pubblico deve assolutamente scendere. Queste erano le parole di Renzi, e stanno lì scritte nel documento, quindi uno dice: ma cambia idea. Cambia idea, però l'opposto. Giovanni da Pistoia. Sì, buongiorno Oscar, grazie per avermi richiamato. Io c'ho un problema, ho 62 anni, faccio la guardia giurata da 25 anni e ho versato contributi in parte in Italia e in parte in Germania, 43 anni e 7 mesi circa. Ah. E non posso andare in pensione, sono invalido al 67%, se faccio l'aggravamento sicuramente oltrepasso il 70%, ma sicuramente non mi daranno più del 74. Ora, io se voglio andare in pensione ci posso andare solamente con quella italiana e mi danno 850 euro al mese, perché quelli tedeschi me li danno nel 2021. Io trovo questo ingiusto, perché i bancari possono andare 7 anni prima e noi invece non lo possiamo fare. Di uno che lavoro sono andato a cercare di qua di là, ha una inabilità, insomma un noi, ecco, impegnativo, per così dire, ecco, con tutto rispetto per chi si trova esubero, ma però sì. Se mi permette una cosa, noi sì. Guardie giurate, no? Facciamo il lavoro come lo fanno le forze dell'ordine, no? Sì. Però siccome abbiamo un contratto che appartiene al commercio, no? Noi non siamo tabellati, certo. Però io mi sono ammalato, per quale motivo? Perché per 20 anni ho pattugliato, sì. E non mi viene riconosciuta l'inabilità al lavoro come lavoro usurante, perché io sono 10 anni che non faccio più pattugliamento. Cioè, ma se io mi sono ammalato per questo motivo, perché non devo avere gli stessi diritti che hanno le forze dell'ordine oppure gli autisti di autobus? Bella domanda, perché sulle asimmetrie che vivono i paesi basso diritto. Michelangelo da Milano, Michelangelo, che ci dici? Allora, buongiorno innanzitutto, complimenti per la trasmissione, non si dice sempre. Allora, io la mia è una premessa e con una conclusione ovviamente. Io credo che in generale il popolo italiano, e adesso lo sto facendo anche un po' dall'alto dei miei 48 anni per quel poco che ho visto un po' dell'Italia, è che ormai è assorbito dal concetto che uno Stato comunque in ogni caso lo aiuterà. E questo io lo considero per le questioni delle pensioni, quindi una generazione è protetta dallo Stato e quindi va benissimo che sia così, perché quella pensione lì poi aiuterà, di fatto lo Stato ragiona così, aiuterà i figli o i nipoti attraverso quel tipo di pensione. Cioè io credo che a livello ancora più esteso la questione in Italia, vedrete che lo Stato comunque assorbirà i cosiddetti debiti cattivi, questo sicuramente, quindi si prenderanno la parte buona, ma questo è un leitmotiv che noi abbiamo ricorrente. Allora io credo che il popolo italiano sia comunque assoggettato a questo perché va bene così e questo, e no, e poi io so già i commenti di Giannino perché stimo moltissimo e credo che sia una persona ce ne vorrebbero di più. Al di là di questo. E chiudo la mia discorso. Io credo che il popolo italiano avrebbe bisogno di un pochino di calvinismo, cioè quel sano egoismo, quel, no, non è egoismo perché lo sto troppo riducendo, ma quella strana, come dire, amor proprio, per cui a un certo punto bisogna incominciare a manifestarsi. Posso dirti, l'essenza del calvinismo è un criterio di giudizio non autocompiacente su se stesse, applicato agli altri. Ma poi scusi, posso dire? Sai la persona che conosco nel mio circolo di strettissime persone, per esempio, più calvinista di tutti, ma perché, ripeto, il fondamento del calvinismo è il non essere autoassolutori con se stessi prima di rompere il cazzo agli altri. Mario Seminerio. Questo lo dico perché lo stimolando per questo, perché lui non fa sconti a se stesso. Lui, se c'è l'ombra di una roba che non gli torna su una cosa che ha detto, si incazza come voi non avete neanche idea di fronte a questo. Sapete perché? Perché io conosco invece un po' di gente che fa rigore nelle tasche degli altri, nel proprio no. Ecco, il calvinista, poi vi può star simpatico o meno, non è capace di questa discoerenza, ecco, epistemologica, morale. Però posso dare appuntamento all'ascoltatore al 28 di ottobre, perché facciamo la puntata dei Conti della Belva per il 500enario delle tesi luterane, promesso, perché il 31 ottobre 1517, 31 ottobre 2017, facciamo una bella puntata. Saremo qui così, a fare i luterani. Poi, se lei chiede calvinismo in un paese cattolico, io sono con lei, però forse inizio a fare le valigie. No, anche perché abbiamo Leonardo tra poco che ci scomunica. Il professor Leonardo Becchetti. Leonardo sembra quasi che sia il giocatore di basket. No, è il professor Leonardo Becchetti, che tra pochissimo, perché chiediamo a lui. Lui la pensa come Renzi. Mentre riprende l'economia, c'è bisogno di fare più deficit. Tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Eccoci qua, e con noi lo ringraziamo il professor Leonardo Becchetti, che insegna economia politica alla facoltà di economia dell'Università di Roma Tor Vergata, di cui noi siamo avidi lettori, a dirvi la verità, spesso vediamo anche su palchi che ci piacciono molto per l'impostazione generale. Faccio un esempio, quelli della FIMCIS, dell'amico Marco Bentivogli, che ogni settimana io devo stare buono e zitto, non mettere troppe elogi in pubblico, perché sennò se non ce lo bruciamo, no, sennò non gli faccio un favore. Io per primo lo dico a Marco Bentivogli, però anche questa settimana gli ho sentito dire cose, e spessissimo il professor Becchetti è appunto parte importante di questi confronti, e allora ci siamo detti con Carlo Alberto e con Mario, ma di fronte a questa uscita di Renzi, 2,9% di deficit per 5 anni, in un paese in cui il PIL, come abbiamo detto, il PIL, l'esportazione cresce da noi, cresce ancora di più in Europa, i dati mondiali sono comunque di significativo consolidamento delle aspettative positive, proprio adesso è il momento di fare più deficit, quando persino, insomma, un banale keynesismo, no? Vorrebbe che quel deficit in più si fa quando le cose vanno male, quando invece vanno bene bisogna mettere fieno in cascina. Allora, che senso ha chiederlo? Però, professor Becchetti, grazie di essere con noi. Lei che dice? Grazie a voi, ma intanto lui l'ha fatto per un motivo politico, voleva rompere un isolamento, ormai si è formato un blocco di, diciamo, no PD, no Europa, e quindi lui voleva far vedere che comunque era critico. Io non sostituirei una cosa che di fatto non esiste più e che è molto bizantina come il fiscal compact, con una regola meccanica di un deficit a 2,9 per 5 anni. Quindi separerei la cosa. Innanzitutto bisogna fare qualcosa di diverso. Oggi c'è una bella intervista di Calenda su Sole 24 Ore dove dice: costruiamo un nuovo progetto di sviluppo che si basi sulla sostenibilità del debito, quindi un debito che scende, e sulla sostenibilità sociale, perché l'altro aspetto fondamentale di cui dobbiamo tener conto è quello della sostenibilità sociale del paese. Il fiscal compact è morto perché c'è stato un articolo molto bello, io l'ho scritto già nel 2014 su questo, ma voi sapete che si può derogare dal pareggio del bilancio quando il paese ha un eccesso di disoccupazione, e quindi si può spingere fino ad arrivare al tasso di disoccupazione naturale, quindi in realtà anche il fiscal compact ha pezzi di politica keynesiana dentro. Altro che... Però Però la cosa assurda è che questo tasso oltre il quale non, di disoccupazione oltre il quale non si può andare perché farebbe ripartire l'inflazione per l'Italia era fino a qualche tempo fa a due cifre, cioè superiore al 10%. Oggi tutti gli studi ci dicono, ne è uscito uno proprio quattro giorni fa, che negli Stati Uniti dove la disoccupazione è al 4% l'inflazione non riparte. Quindi l'idea del fiscal compact si fonda su dei mattoni che sappiamo che oggi non hanno più senso sulla base degli studi. Allora qui bisogna capire qual è la strategia. Allora c'è una strategia di Padoan che è quella diciamo più sottile di smontare la cosa dall'interno. C'è un bello studio del documento del Ministro del Tesoro che ha fatto per l'Europa dove si dice ma calcoliamo in modo diverso il Nauro, cioè lo fa in modo molto più gentile, più delicato, poi mette sul conto le spese per i migranti, mette sul conto le spese per il terremoto. Però io dico che forse è il momento di ridefinire proprio quella che è la strategia. E dovrebbe essere una strategia che secondo me dovrebbe puntare su una serie di cose. Darsi come target, non un target meccanico sul deficit, ma un target di discesa del debito. Per esempio, ho rifatto i conti e l'ho messi pure su Twitter adesso. Infatti te li contestiamo adesso questi conti, Leonardo. No, ma questo, prego, prego, illustrali. Io dico sui dati, usando la formula del debito, diciamo della dinamica del debito, mettendo decimale più, decimale meno i dati di oggi, poi possiamo discutere se sono previsioni giuste o no, no? Ho messo già l'1,4 di Banca Italia. Mettendo quei dati il rapporto debito-PIL scenderebbe di un punto, quindi senza fare nulla. Cosa propone Renzi? E siamo col deficit a 2,4-2,5. In fondo non è che è una cosa enorme quello che dice Renzi, lui dice aumentiamo di 0,5 il deficit, però io non, quindi ci guadagna 6-7 miliardi, non di più. In realtà io cambierei proprio la questione, io direi noi dobbiamo, quello che disse Draghi una volta in un famoso discorso di Jackson Hole, dobbiamo riqualificare la spesa. Perché non esiste l'essere keynesiani o rigoristi a prescindere, come guidare una macchina, l'economia dipende dal terreno, dalla situazione. Essere per la spesa, per la politica monetaria espansiva negli anni 80 voleva dire generare inflazione, farlo oggi è completamente diverso. Quindi dobbiamo riqualificare la spesa. Ci sono delle cose che hanno funzionato, penso al bonus per le ristrutturazioni edilizie, penso al superammortamento, penso ai soldi che stimolano l'andare all'export delle aziende per l'ICE, eccetera. Quindi puntiamo su, come diceva anche Draghi, sulla spesa ad alto moltiplicatore. Puntiamo anche su delle cose fondamentali per la sostenibilità sociale. Io credo sono delle cose molto serie oggi, per esempio il fondo per i farmaci innovativi. Oggi sappiamo bene che siamo in una fase in cui esistono dei farmaci immuno-oncologici che allungano la vita delle persone. E purtroppo sono ancora protetti da brevetti e quindi costano molto e la spesa per lo Stato è notevole. Il sostegno di inclusione attiva è un pezzo fondamentale per il Paese, per la sostenibilità sociale del Paese oggi. Forse bisogna mettere qualche risorsa in più lì. Quindi io credo bisogna fare un programma un po' serio e però darsi come obiettivo quello comunque di mantenere la reputazione che ci siamo conquistati sui mercati finanziari e quindi mettere in piedi un percorso di riduzione del debito. Ecco, però io non mi darei un target meccanico del 2,9. Allora, così il professor Becchetti ci consegna un ragionamento, per così dire. Certo. Perché io sono d'accordo con la sua premessa, quella era una formula politica, però le formule politiche sparate così secondo me rischiano di fare peggio. Io voglio dire, abbraccio e solidarizzo con Padoan, che come dice lei in termini tecnici però inappuntabili e gentili ha fatto tutto il discorso sull'output gap, come si calcola, come si calcola il Nairon, questo. D'accordo, però vedersi sparato dietro le spalle in quel modo sono solidale con lui, ma invece vado al punto di quello che dice, il punto di quello che dice, premessa per me, se l'abbattimento del debito non si costruisce solo su l'ipotesi di gli effetti della maggior crescita del PIL reale e nominale, ma si fa un piano vero, ma vero significa che c'è una componente inevitabile di contenimento della voce conto economico, cioè del deficit annuale, che deve essere significativa e strutturale. E allora a quel punto anche un intervento straordinario sul debito, non però sotto forma di presa per i fondelli, di ennesimo passaggio di titolarità delle quote di controllo delle aziende pubbliche per fare incassi e abbattersi la quota di debito pubblico secondo il perimetro dello Stato, perché quelle sono puttanate democristiane, scusate il termine detta proprio fuori dai anche denti, se le usano per le banche non è il caso di usarle per lo Stato, che oltretutto fanno male alle aziende pubbliche perché li impiccano a dividendi sempre ancora più crescenti e stressati, quindi ecco, proprio a quello sono contrario. Ma se le premesse sono un piano sul deficit, il deficit per fare le cose che ha detto Becchetti, sulle quali dalla prima all'ultima come ordine di priorità, sì, io ci sto. Beh, perché questa è un'analisi intelligente delle misure su cui per gli stress sociali della piramide dei redditi del nostro paese bisogna andare, visto che 50 miliardi di bonus non hanno toccato gli incapienti, tanto per dirne una. Allora, uno, lì ci sto. E però nella riqualificazione si può dire che questa storia per cui la spesa corrente così com'è non si può toccare non è fattualmente vera, come è fattualmente vero quello che dice Becchetti, non è fattualmente vero perché noi abbiamo proposto, ma non stiamo parlando di quello, nella flat tax al 25% che tocca anche il finanziamento della proprietà del welfare, abbiamo proposto, siccome è a minor gettito e non la vogliamo fare in deficit perché non si finanziano in deficit i tagli delle tasse, altro errore di Renzi, per me indichiamo, guardate che delle proposte di Cottarelli qua ci sono contenimenti reali, non spostamenti e riallocazioni, contenimenti reali di spesa corrente, non ve li voglio elencare, li trovate per chi c'è il nostro libretto a pagina 99, però reale. Allora, se ci sono queste due cose, caro Alberto, la cosa di Becchetti a me convince, però ci devono essere davvero il contenimento della spesa corrente che serve per rafforzarlo e il piano sul debito. Sì, perché Leonardo fa un'ingenuità quando mi dice che il costo del debito non sale a fronte di una situazione di politica monetaria che non può che cambiare, a fronte di una credibilità italiana che è tutta da dimostrare. Quindi Leonardo, ti direi tabellina matematicamente corretta ma con degli assunti difficili da difendere, soprattutto sul costo del debito e su una crescita del PIL che in questo momento è un po' drogata da interventi che noi tutti applaudiamo, appunto, no? Di sostanziale supporto fiscale. Volevo che tu commentassi su questi aspetti. Sì. Ma sul costo del debito c'è un grande punto interrogativo, ovviamente, perché bisogna vedere cosa succede se finisce il quantitative easing, il dopo Draghi e tutto quanto. Però un dato a me ha colpito moltissimo. Noi paghiamo mediamente sullo stock il 3,5%, ma il flusso attuale lo finanziamo allo 0,5%. C'è un gap impressionante. Allora, è chiaro che ci continuerà ad essere, secondo me, un effetto di diminuzione del costo medio dello stock, anche se la situazione non sarà più così rosea sul flusso. Però è proprio lì, secondo me, che bisogna pensare, più che su fantasiose, appunto, politiche, la sterilizzazione delle spese di interessi. Cioè, lì ci sono delle cose, dei ragionamenti da fare. Per esempio, c'è una cosa interessante che dice un altro collega, Boitani, qualche giorno fa. Lui dice ormai il 17% del debito è nelle mani di Banca Italia. Ma Banca Italia potrebbe pure decidere un giorno di farci pagare un tasso di interesse di comodo. Cioè, il tema, noi proponemmo quando facemmo l'appello dei 360 economisti, sì, il momento più difficile dell'Europa, mettemmo una cosa che molti credo non capirono neanche, che era piuttosto complessa, che è il piano di Biblos, sì, un economista, sì, importante polacco, che lui dice prendiamo l'oltre 60% del rapporto debito-PIL, lo facciamo acquistare alla Banca Centrale Europea, la Banca Centrale Europea poi diciamo fa dei titoli a tasso di interesse zero quasi, che ripeto è quello che per il 17% ha fatto Banca d'Italia di fatto, sì, sì, di fatto. Quindi un intervento sullo stock che si chiamava anche piano padre, cioè piano politicamente accettabile, perché in realtà Biblos faceva i conti e diceva poi ogni paese si paga la parte sua, non c'è bisogno di mutualizzare niente. Ora, secondo me lì si può ragionare un pochino, cioè non è che diciamo dobbiamo per forza andare col cilicio, cioè se ci sono possibilità di sterilizzare la spesa per interessi, e secondo me le possibilità tecniche esistono, chiaramente ci vuole la volontà politica, bisogna concordarlo eccetera, io non vedo perché non si debba fare lì. In realtà quel punto del costo del debito, sì, ci sono delle incertezze al rialzo. Ma distorcere il mercato sul prezzo del debito, però Leonardo, adesso che ci mettiamo a giocare noi e facciamo gli apprendisti stregoni, di fatto tornando al finanziamento del debito nazionale, non so, non mi sembra un punto, come dire, moderno, mi sembra un arretramento culturale, a te che ami l'Europa come l'amiamo noi, non mi sembra un segnale, anzi, va per la frammentazione ulteriore del mercato finanziario. Sinceramente mi trovo una retromarcia culturale. Il quantitative easing che è stata alla fine una distorsione forte del mercato è stato fondamentale in quel momento per salvare l'Europa. Ma renderlo strutturale però non va bene. Cioè, è stato, posso dire, un coniglio del cappello di Draghi, ma da questo a dire che noi, diciamo, lucidamente, e lo dico da allineato con te, proponiamo un ritorno al finanziamento nazionale, non lo so. Oscar, dimmi tu. Mario non dice niente, quindi mi aspettavo un minimo di non vuole dire nulla. No, noi abbiamo già compresso il tempo per questo perché. Però gli abbiamo fatto esporre una cosa su cui continueremo a ragionare con lui, perché ragazzi, attenzione, noi non dobbiamo mai dare l'impressione di essere qua seduti su una sedia di certezze, il tempo è bombe, assolutamente, gli strumenti pure e le persone. Allora, io apprezzo il professor Becchetti questo, parla senza pregiudizi, visto che con noi ad accettare il palazzo sono in pochi. Scusate, a me non sembra poco, sembra tantissimo, io lo ringrazio. È riuscito a farti diventare democristiano per quasi 10 minuti stamattina, direi che sono risultati importanti. Carlo Alberto, di solito lo fai tu, democristiano, e invece questa volta. Va bene, grazie, grazie professore. Leonardo. Grazie a voi e buon proseguimento. Conti della Belva. Ed ecco la musichetta di Fellini, la musichetta di Fellini che ben si adatta in questo paese in cui ogni capitolo, ogni riga, ogni virgola, ogni dettaglio, ogni semantema di questo meraviglioso libro che travolgerà ogni record di vendita nelle librerie italiane. Ogni giorno, ogni minuto, ogni ora mette nelle cronache politiche, perché c'è una riga per tutti. Naturalmente sto parlando del libro del nostro ex presidente del Consiglio. Il libro centrale della trilogia, che inizierà con Vieni, è continuato con Avanti. E come chiude? Come chiude? Con i Fratelli De Regge. Udo Gumpel, che sei con noi. Tu l'hai letto, hai già scritto, hai già raccontato di questo meraviglioso volume ai tuoi, a chi ti segue in Germania? Purtroppo non c'è molto interesse per questo meraviglioso libro dell'ex presidente del Consiglio, perciò sinceramente anche la stampa tedesca, anche quella più diciamo interessata alle minuzie italiane, non ha mai preso nota, non è stato citato una riga. No, perché oggi c'è un'intervista di Monti in cui è un giudizio spietato su Renzi, cioè dice che tutti questi toni di Renzi continuano, lo rendono di volta in volta sempre a impatto meno significativo sulla scena internazionale. Ma secondo me se non lo notano in Germania è molto meglio per Renzi, perché dal punto di vista dei contenuti questa sua proposta di alzare per 5 anni il deficit al 2.9 in Germania diventa un caso da TSO, non è proprio da prendere sul serio. Proprio quando tu sei in un momento di economia che espande dovresti fare tesoro e dovresti ridurre il debito, questa parola che è veramente sembra un'offesa alle orecchie, è questo fardello gigantesco che lui, nonostante che lui avesse detto, secondo me è una menzogna, e che nel tempo suo non avrebbe aumentato il debito, invece lui l'ha aumentato di 4,5%. Ma il bello è che anche in televisione d'Amentana ha ribadito che lui ha lasciato il debito esattamente dove l'ha preso. Peccato che in 3 anni era salito di più di 200 miliardi. Però lui continua a dirlo. È Mentana che fa tanto lo scrupoloso. Mica lo ha bleccato e gli ha detto... No, ma secondo me Mentana, se lui faceva notare non solo gli errori in latino, ma anche tutti i fattuali, e Renzi non aveva neanche più da schiattare, questo è il problema. Ma no? Per fortuna è arrivata la pubblicità. La cosa tremenda è Renzi è purtroppo in una parabola completamente che si sta abbissando alla ricerca disperata di trovare però, il tema. Io sono sicuro che questa volta te do una dritta. Vediamo, perché magari tu lo sai, perché io non mi meraviglierei, perché in Italia non lo sa quasi nessuno dei miei colleghi, non se lo ricorda nessuno, ed è abbastanza incomprensibile perché è una chicca vera. Tu hai mai sentito parlare, Udo Gumpel, della Cheltrons Cup, cioè questo la coppa dei cialtroni? No, ma vedi, loro ridono perché non lo sanno. C'è davvero, adesso Udo, al di là di tutto, ne hai mai sentito parlare? Se no ve la racconto in diretta, perché è una cosa vera. Udo, la conosci oppure no, la storia della Cheltrons Cup? No. No, sinceramente no. Allora, è una questa novità, coppa, una chicca che me la dai. Allora, no? È una chicca vera, ripeto, ascoltatori e tutti, non sto inventando, andate subito a controllare sulle fonti. Da parecchi anni, diciamo più di 2 decenni, a Firenze c'è questa manifestazione calcistica, goliardica, messa in piedi dagli ex studenti del liceo Dante, che si chiama appunto la Cheltrons Cup. E chi ci ha giocato secondo voi nella Cheltrons Cup? Chi è, Matteo Renzi, non solo lui. Allora, questa storia di Matteo Renzi, che ha giocato nella Cheltenham Cup, tra l'altro i nomi delle squadre che compongono il torneo che classicamente c'è in primavera, sono fantastiche, perché è veramente una roba che affonda le radici nella miglior letteratura autoironica del 300 toscano. Ecco, Matteo Renzi è stato uno dei protagonisti di questa Cheltenham Cup, che ha anche un regolamento particolare, perché le squadre sono composte con giocatori, ciascuno dei quali ha un peso per qualità da 1 a 5 e il totale dei componenti della squadra non può fare più di 26, come se fosse una specie di salary cap dell'NBA, del basket americano. Quindi è una cosa vera che esiste, e Renzi è un campione acclarato della Cheltenham Cup, non sto inventando. Quindi, questa cosa, secondo me, i tuoi ascoltatori tedeschi, i lettori tedeschi, non sarebbe male raccontarla. Ma al di là di tutto, senti, andiamo, dacci un giudizio fotografico. Questo Trump, Macron, in Germania, cosa è stato visto? Puro muscolarismo di questa figura molto imperiale, che sta un po' esagerando. Macron ha fatto un discorso ai militari che non mi è piaciuto, ha detto io sono il vostro capo, ha reagito a qualche critica del generale De Villiers e così via. Solo quello, o c'è qualcosa che riguarda anche una preoccupazione del rapporto franco-tedesco, tutta questa importanza data a Trump? No, io credo che la Germania tifa fegatamente per Macron, perché sapendo che lui è sostenuto da una minoranza attiva di francesi, ma è un equilibrio estremamente precario. E allora, se adesso lui promuove verso la Germania progetti come per esempio un nuovo caccia franco-tedesco, che dovrebbe avere, diciamo, un po' un futuro migliore dell'Eurofighter, se l'esercito per esempio francese ha appena ordinato, adesso sarà armato soltanto di Heckler & Koch, ovvero dell'arma di assalto tedesco, significa che la collaborazione militare aumenterà enormemente, ed è per la Francia molto importante, forse ancora più importante rispetto alla Germania, che ci sia una, come dire, una strettissima collaborazione. Però noi tutti sappiamo che Macron non cade su un fucile dell'Heckler & Koch, ma se casomai cadesse sarebbe sulle sue riforme del mercato del lavoro, perché il mercato del lavoro in Francia è estremamente ingessato, con sindacati estremamente agguerriti, soprattutto naturalmente del pubblico impiego, come le sappiamo le storie, certo, dall'Italia, certo. E dunque è una sua scommessa di prendersi a prestito, non solo in Germania ma anche in altri paesi, le ricette che in altri paesi hanno funzionato bene, no? Come per esempio, io dico sempre, non guardate alla Germania, che è un paese insignificante con il suo 82% di occupazione, 44 milioni di persone che lavorano, va bene, lasciamo stare, no? Ma perché non guardate ad un paese che negli anni 70 era in profonda crisi anche di lavoro, disoccupazione, la Danimarca? Loro hanno fatto una riforma veramente radicale, hanno abolito ogni forma di contratto nazionale, e lì un imprenditore può licenziare come gli pare, quando e come gli pare. Allora, questo non ha portato, come pensano magari molti sindacati italiani, anche molti dipendenti italiani, alla disoccupazione totale dei danesi, perché voi sapete, l'imprenditore cosa fa? Lui licenzia, certo, perché è cattivo, perché il capitalista, esatto, vuole rovinare, gode come un operai, la classe operaia. Cosa è successo in Danimarca? Completa occupazione. Tutti sono occupati, con naturalmente un'aggiunta estremamente importante: chi perde posto di lavoro è assicurato per un anno col suo stipendio, però con l'obbligo di cercarsi un nuovo lavoro, di riqualificarsi e di mettersi a disposizione anche del sistema che ti trova un nuovo lavoro. Questo ha ridotto quasi a zero la disoccupazione danese, ha creato la piena occupazione e la chiara e più certa dimostrazione che molte di queste regole, articolo 18, non servono, no, al dipendente, esatto, non servono al mercato del lavoro e non portano alla depauperizzazione, alle teorie di Carlo Marx, pace alla sua anima, no? Nel paese del Brexit, no? Cioè, se uno volesse guardare laddove sono state applicate delle ricette diverse, avrebbe di che imparare. Che hanno avuto successo, non gli Stati Uniti, che si barcamenano con il 60% di tasso di occupazione. Perché ragazzi, noi dobbiamo guardare il tasso di occupazione in un paese. Perfetto. Molto più importante di quello di disoccupazione. E l'Italia è il finalino di coda insieme a Malta nel tasso di occupazione. Vedremo se su questo Macron ce la farà, perché su questo secondo me non è affatto in discesa come sembra la sua via. Mi colpisce tutta questa attenzione per il tipo di taglio che vuole dare a una presidenza molto imperiale, ma vedremo. Ci aspettiamo dalla Germania una posizione chiara sul futuro delle spese militari in Europa e nazionali. Non so, Udo, se ne parla di questo in Germania. Ma in Germania c'è la consapevolezza che va aumentata anche notevolmente per raggiungere effettivamente quel 2% del PIL che è tutti i paesi hanno fermato, che peraltro è una richiesta perentoria dei paesi dell'est. Esatto. Per riallacciare l'accordo anche con la Polonia, con i paesi baltici, la Germania deve veramente... Siamo riusciti a regalare a Trump, ecco, i paesi baltici della Polonia. Questo secondo me è un grave errore europeo. Io non perché voglia la politica della guerra con Putin, però secondo me è un grave errore. Intanto, grazie Udo Gumpel come sempre. Questa settimana ci sono state anche novità tragiche, secondo me tragiche per loro in Britannia, perché a dirvi la verità la somma dei tre avvenimenti, il fatto di aver dovuto ammettere che ormai devono pagare il conto prima di tutto. Esatto. E stiamo parlando di 100 miliardi. La missione, non saranno 100 miliardi, saranno, ma la meno, missione però proprio del ribaltamento della sconfitta iniziale di tutto, del primo no che aveva detto la May. Punto numero uno. Esatto. Punto numero due, fatto di dover ammettere pubblicamente che ci sono interi capitoli ancora su cui il governo non li ha mai aperti, tipo cosa facciamo uscendo dall'Euratom, avendo loro le centrali, ecco, hanno dovuto ammettere, non ne abbiamo la minima idea, siamo ancora a questo. Ma terzo, le reazioni al repeal bill, cioè il fatto che dovranno affidare al governo, ai ministeri, alle direzioni generali dei ministeri la riscrittura di 19.000 atti normativi di fonte europea vigente in Gran Bretagna, aggirando totalmente il Parlamento, cioè il più colossale aggiramento dei poteri del Parlamento dai tempi di Enrico VIII, per essere chiari. Ecco, queste tre cose danno una vaga idea, oltre ai dati economici, del casino che c'è in Gran Bretagna, e francamente io non so che piega prenderà. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati dopo questa inusuale puntata che ci ha visto ovviamente sconfitti dal fatto che gli esuberi delle banche sono pagati con i soldi pubblici e prepensionati per 7 anni. Noi no, la Gran Bretagna ha una vita fuori dalla porta di uscita, qualunque sia il percorso, diversa da quello che immaginava dell'Unione Europea. Abbiamo scoperto che il professor Carnaberto Canale Maffede va d'accordissimo con il professor Vecchetti nell'immaginare che insomma forse un po' più di deficit in più non va male, e quindi è stata una puntata che ci ha riservato delle sorprese. Oscar, ma che Democristiano l'hai fatto tu stamattina? Di solito lo faccio no, io ho detto che la riqualificazione di alcune voci di spesa, quella per chi ha meno, ci sta, ma io voglio un piano di deficit, contenimento reale del deficit, azzeramento del deficit, che si può fare, perché ripeto, ho indicato mille volte, e se uno prende, ridò l'indicazione, compratelo questo libretto, lo trovate sull'indicazione del nostro sito 25 per tutti, che il sito dove trovate sia il paper sia il libricino, costa 3,99 euro, che abbiamo scritto per illustrare la flat tax, dove trovate indicata a pagina 99 24 miliardi di spesa corrente che si possono aggredire in termini reali. Quindi io l'ho detta così, è tutto tranne che democristiano, solo che l'ho detta col tono soave, perché il professor Bocchetti non mi metto a urlare, però l'ho detta così, e a quel punto ci vuole anche un piano serio di abbattimento del debito, e ho detto però non deve essere l'operazione Capricorn, che vi troverete tra poco squadrata dai giornali come una geniale trovata, perché così è. Renato Cifarelli, questa settimana lo Stato amico a te imprenditore cosa ti ha riservato? Buongiorno a tutti. Allora, questa settimana ho meditato un po' sulla mia visita la settimana scorsa nel, le zone del terremoto, e mi ricollego a quello che diceva all'inizio Mario Seminerio, cioè che tutti stanno chiedendo all'ANAC e a Cantone, a San Cantone, il bollino. La cosa che è saltata fuori la settimana scorsa quando ho parlato con le persone delle zone terremotate è stata la burocrazia, quindi questi appalti che non partono, perché ormai in Italia, siccome tutti aspettano il bollino di Cantone, non si va avanti e non si fanno gli appalti, nessuno firma, in modo che se non firmi nessuno ti potrà dire che hai firmato. Allora la mia, il mio pensiero di questa settimana è una cosa un po' strana, mi rendo conto, ma si inserisce nella puntata strana che è di oggi, ed è: qual è il giusto equilibrio fra il controllo, che è doveroso con i soldi pubblici, o l'eccesso di controllo, che è il non firmo così non ho la responsabilità, eccetera eccetera, che blocca tutto. Perché se da un lato noi sicuramente, e lo dico da imprenditore, conoscendo anche tanti colleghi, non possiamo fare il la giungla in cui ognuno fa i suoi interessi, eccetera eccetera, dall'altro lato però bisogna che da qualche parte cominciamo a pensare a come fare un codice degli appalti e delle procedure in modo che il paese vada avanti, perché qua ci stiamo fermando solo perché non vogliamo fermare, ed è una cosa che mi sta un po' intrigando, perché proprio questo problema dell'equilibrio, quello che mi intriga, che è un po' poi l'equilibrio che tu hai in azienda quando tra il controllo e la delega, no? Esattamente, però il problema è che in azienda non hai quell'essenziale interna, la funzione anche dell'accertamento giudiziario, questo è il punto, come ovvio. Beh sì, ce l'hai esterno, nel senso esterno, che poi arrivano a dirtelo. Se hai fatto qualcosa che non va bene, poi con la tua. Però, Renato, il tuo punto è molto importante nel momento in cui qualcuno qua straparla di rilanciare investimenti pubblici. La verità è che sono stati ostacolati anche da un eccesso di controllo e di burocrazia, oltre al fatto che sono mancati i soldi, perché oggettivamente lo vediamo dal fatto che l'Italia non riesce a spendere i soldi europei, okay? Non siamo nemmeno in grado di spendere ciò che allochiamo a investimento pubblico. E su questa confortante, ottimistica, come sempre, giudizio finale, noi poi vi auguriamo di me, un buon fine settimana. Abbraccio Mario Seminerio e io sono gratissimo. Guardate che l'anno prossimo io ve li riammannisco, sì, cari sì. Ascoltatori, perché siccome mi scrivete, ma Mario Seminerio e Carlo Alberto ci sono l'anno prossimo? Sì, non vi libererete di noi!